Ultima generazione è un movimento, un insieme di cittadini e cittadine che pratica la disobbedienza civile non violenta per chiedere al governo di applicare delle misure contro il cambiamento climatico, il collasso climatico. E noi al governo italiano stiamo chiedendo due cose, che sono lo stop alla riapertura delle centrali a carbone e rispettare il 2025 come termine per dismetterle, come era già stato deciso dalla COP26, e non approvare nuovi progetti di estrazione di gas naturale e invece investire in 20 gigawatt di energie rinnovabili fra eolico e solare. Facciamo parte di una rete A22 che raggruppa tutti questi movimenti che sono in tutto il mondo e usano le stesse pratiche per lottare contro il collasso climatico, insomma. Ovviamente ognuno chiede al proprio governo delle misure che c'entrano con la situazione che hanno, insomma. Avete appunto fatto molto discutere per alcune azioni che hanno preso di mira delle opere d'arte. Perché avete scelto questa forma di protesta? Sicuramente perché l'arte di per sé è un tramite di messaggio e l'arte stessa molto spesso è stata protesta e molto spesso le correnti artistiche che ora esponiamo in realtà nei musei, quando sono nate in realtà hanno già destato magari scandalo o non piacevano, quindi in realtà non è una cosa nuova usare l'arte per provocare o mandare un messaggio. Non c'è mai stata l'intenzione di rovinare le opere d'arte, ovviamente prima di scegliere l'opera valutiamo tutti i rischi e sentiamo degli esperti per capire se l'azione può danneggiare o no l'opera, quindi siamo attenti anche a quello, però appunto che vogliamo sottolineare che è assurdo indignarsi per un'azione del genere quando dovremmo essere arrabbiati per il fatto che il governo non sta tutelando il nostro futuro e continuando ad investire nelle energie fossili sta condannando a morte i propri cittadini e le proprie cittadine e dovremmo agire per questo, anche perché se fra qualche decina di anni l'Italia sarà desertificata non andremo più ai musei e proteggere l'arte significa dover proteggere anche le nostre vite, perché se siamo in pericolo noi, lo è anche l'arte, quindi il messaggio è anche questo sostanzialmente. Voi selezionate comunque le opere d'arte, quindi insomma, dicevi c'è una preparazione prima. Sì, ovviamente c'è un significato simbolico magari per le opere d'arte, nel senso, ad esempio, il seminatore ovviamente si ricollega al fatto che stiamo perdendo i raccolti, stiamo perdendo il cibo e già adesso ci sono i prezzi dei supermercati che sono molto più alti perché stiamo perdendo il cibo. Poco fa c'è stata a Bologna un'altra azione riguardante la strage degli innocenti, ricollegata a quello che è successo a Ischia, quindi c'è un significato simbolico, ma la preparazione sta anche nel valutare di non rovinare l'opera, perché ovviamente l'azione è un'azione simbolica di provocazione che crea un minimo di disagio, ma non deve danneggiare l'opera perché ovviamente non è un'azione contro l'arte, stiamo semplicemente utilizzando l'istituzione del museo e l'arte per mandare un messaggio. Le vostre azioni hanno suscitato spesso polemiche, hanno polarizzato l'opinione pubblica. Siete consapevoli, insomma, di questo? Sì, siamo consapevoli di questo, ci dispiace dover interrompere magari un momento comunque di quotidianità, di svago magari per alcuni e capiamo che l'arte è molto importante ed è un momento bello dover stare lì a guardare delle opere che magari delle persone non avrebbero guardato in un altro giorno, però la cosa più importante in questo momento è cercare in tutti i modi possibili di garantirci un futuro. Facendo disobbedienza civile non violenta sappiamo di creare un disagio, vogliamo creare un disagio per interrompere la quotidianità delle persone e anche se suscitiamo reazioni negative c'è la speranza che magari tornino a casa e dicano oggi hanno interrotto questo mio momento per questo motivo, poi magari non sono d'accordo con i metodi ma stiamo lanciando un allarme in qualche modo e polarizzare diciamo le opinioni fa parte della disobbedienza civile, creare un disagio fa parte della disobbedienza civile, ovviamente nella maniera più non violenta possibile, quindi non facciamo male a nessuno e prendiamo tutte le precauzioni possibili. C'è anche una riflessione che riguarda il mondo della comunicazione, cioè se con manifestazioni magari anche molto partecipate i giornali non parlano di voi e soprattutto del tema che sollevate, in questo modo invece si accendono più facilmente i riflettori. Sì, ovviamente questo tipo di azioni servono anche ad avere un grosso impatto mediatico, quindi più è alto il disagio, il conflitto che viene creato, più l'impatto mediatico sarà alto. In realtà abbiamo avuto un riscontro, nel senso abbiamo avuto delle piccole vittorie in questo senso che dopo le azioni a Roma siamo stati in televisione molto spesso, in programmi televisivi, sono usciti diversi articoli su di noi. magari anche positivi, non vengono più censurate alcune nostre parole nelle testate giornalistiche, si parla di collasso climatico, si parla di emergenza, molto spesso vengono citati i governi come criminali, prima non ci censuravano questa espressione, quindi stiamo iniziando a vedere un impatto più grosso e piano piano stiamo iniziando a comunicare la cosa in maniera più corretta, anche se purtroppo molto spesso vengono invitati nei media, ad esempio, negazionisti climatici, e questo è abbastanza terrificante, dato che non si parla di un'opinione ma di un dato di fatto. Il 99% della comunità scientifica è d'accordo che la crisi climatica ha origini umane.